Atto quarto. 39. L'apostolo era ancora allo stesso posto sulla strada e parlava alla moltitudine sul regno di Dio, sulla loro conversione e sul ritorno a nostro Signore. Mentre, dunque, l'apostolo era sulla strada e parlava con quella moltitudine, un puledro d'asino andò a porsi davanti a lui. Giuda gli disse: Non è senza divina disposizione che questo puledro è venuto qui. Perciò, at puledro dico che in virtù della grazia di Dio ti sarà data la parola davanti alla moltitudine qui presente. Di quello che vuoi affinché credano nel Dio vero che noi predichiamo. La bocca del puledro si aprì ed in virtù di nostro Signore egli cominciò a parlare come un uomo dicendo: Fratello gemello di Cristo, apostolo dell'Altissimo, partecipe della parola nascosta del datore di vita e ricettatore dei misteri segreti del Figlio di Dio che, nato libero, divenne schiavo per condurre molti alla libertà per mezzo dell'obbedienza, figlio di una grande famiglia divenuto spoglio affinché per opera del tuo Signore tu possa strappare molti al nemico ed essere causa di vita alla terra degli indiani. È contro la tua volontà che tu sei venuto da uomini che avevano deviato da Dio ed ecco che alla tua vista e all'udire le tue parole divine essi sono ritornati alla vita. Sali su di me, cavalcami e riposati fino al tuo ingresso in città. Giuda alzò la voce e disse: Gesù, figlio della misericordia perfetta. Tu quieto e silenzioso che parli per mezzo di animali che non hanno la parola. O nascosto, manifestato dalle tue opere. Nostro provveditore e custode. Datore di vita ai nostri corpi, datore di vita alle nostre anime. Dolce sorgente che non viene mai meno. Fonte limpida che non si intorbida mai. Tu sei l'aiuto dei tuoi servi che si trovano nell'agone, tu abbatti davanti ad essi il nemico. Tu sei in lotta per noi e ci rendi vittoriosi. Tu sei il nostro vero atleta che non può essere leso. Tu sei il nostro santo generale che non può essere vinto. Tu conferisci la tua stessa gioia che non tramonta mai e quella pace nella quale non c'è più tribolazione. Tu sei il buon pastore, che dà la sua vita per il suo gregge. Tu hai vinto il lupo e strappato i tuoi agnelli. Noi ti glorifichiamo e, per mezzo tuo, esaltiamo il tuo sublime Padre, invisibile, e lo Spirito Santo che si libra al di sopra di tutte le creature. 40. Allorché l'Apostolo pronunciava queste parole, la moltitudine ivi radunata lo stava osservando nell'attesa di sentire quello che avrebbe risposto al puledro. L'apostolo rimase a lungo rivolto al cielo, mentre gli altri stupivano e lo osservavano. Poi disse al puledro: Chi sei tu? Qual è lo scopo delle moltissime cose meravigliose e grandi espresse dalla tua bocca? Il puledro gli rispose: Io sono della razza che servì il profeta Balaam e Dio, tuo Signore. Cavalò su di me. Sono stato mandato da te per darti un po' di quiete, per consolidare così la fede di costoro e mi sia così aggiunta quella porzione che mi è stata assegnata per servirti e che mi sarà tolta dopo che io ti avrò servito. Tommaso gli disse, «Il Dio che ti ha dato questo dono può fare in modo che, infine, esso sia perfetto in te e in quelli della tua razza. Ma io sono troppo piccolo e debole per questo mistero». Ed egli non voleva cavalcare su di lui, ma il puledro lo pregava, e supplicava di venire benedetto, cavalcato da lui. Egli allora montò su di esso, e lo cavalò, mentre la gente in parte seguiva e in parte precedeva l'apostolo correndo per vedere che cosa gli sarebbe capitato, e come avrebbe congedato il puledro. 41. Giunto alla porta della città, egli smontò e disse, «Va e resta al sicuro come sei stato finora». In quello stesso momento il puledro cadde a terra e morì, mentre tutti i presenti rimasero tristi e dicevano all'apostolo, «Ridonagli la vita». L'apostolo rispose, «Non gli ridono la vita». Non perché sia incapace di ridare la vita a questo puledro, ma perché ciò è meglio per lui. Colui, infatti, che gli diede la parola, poteva far sì che non morisse. Ma è perché così è meglio per lui. L'apostolo allora ordinò a quelli che erano con lui di scavare una fossa e seppellirvi il suo corpo, come aveva ordinato. Così fu fatto. Atto quinto. 42. Entrato in città accompagnato dalla moltitudine, l'apostolo pensava di recarsi in casa della famiglia del giovane al quale aveva ridonato la vita, poiché ne era stato insistentemente pregato. Ma una donna venente gridò a gran voce, dicendogli, «Apostolo del nuovo Dio, venuto in India, servo del Dio Santo, che da te è predicato datore della vita alle anime di quanti credono e vanno a lui e guaritore dei corpi di quanti sono vessati dal nemico, tu che sei strumento di vita per l'intero popolo dell'India, concedi ch'io sia portata davanti a te, ch'io possa dirti quanto mi è accaduto. Forse potrò così avere da te qualche speranza e quelli che ti circondano approfondiranno la loro fiducia nel Dio che tu predichi. Ti confesso, infatti, che non è poco il tormento con il quale mi colpisce il nemico, ormai da 5 anni. Prima stavo bene, avevo pace da ogni parte, non avevo alcuna preoccupazione e non conoscevo gli affanni. 43. Ma un giorno, mentre uscivo dal bagno, incontrai un uomo dall'aspetto sconvolto, il cui parlare e la cui voce erano molto deboli. Costui mi disse, «Io e te saremo un solo amore. Unisciti a me come si uniscono un uomo e una donna». Gli risposi, «Non mi sono sposata perché non posso sopportare l'uomo, e come posso concedermi a te che desideri avere un'adultera relazione con me?» E dissi poi alla ragazza che era con me, «Hai visto l'impudenza di quel giovane?» Giunse perfino a farmi proposte licenziose. Lei mi rispose, «Ho visto un vecchio che parlava con te». Giunta a casa e cenato, il mio cuore si impaurì per il fatto che gli m'era apparso sotto 2 forme e me ne andai a dormire pensando a lui. Nella notte, egli venne ed ebbe con me una sordida relazione. Lo vidi pure durante il giorno e lo fuggii. Ma durante la notte prese a venire in una forma spaventosa e mi torturava. E fino al giorno d'oggi nel quale tu mi vedi, per un periodo di 5 anni, non mi lasciò mai sola. Ora, sapendo io e credendo che diavoli, spiriti e demoni ti sono soggetti e tremano alle tue preghiere, ti supplico, mio Signore, di volere pregare su di me e di domandare a Dio di allontanare da me questo tormento, affinché per il tempo che ancora mi sarà concesso io possa essere libera, riacquistare la mia primitiva natura e ricevere il dono concesso ai penitenti. 44. Vista l'istigazione del nemico, l'apostolo alzò la voce e disse: «Male che non può essere frenato, nemico che non ha mai sosta, invidioso che non ha mai quiete, brutto che combatti contro i graziosi per riuscire ad assoggettarli a te. Tu hai molte brutte forme, appari come vuoi, ma il tuo color nero non muta mai perché fa parte della tua natura. Astuto e guastatore delle opere buone. Albero amaro i cui frutti sono simili a te. Nemico bugiardo che loti contro coloro che non sono tuoi. Seduzione che si contorce in se stessa e la cui impudenza osa assalire coloro che sono migliori di lui. Malizia che scorri e strisci come un serpente, entri e prendi di mira la virtù. Ma fino a quando seguito a dire queste cose? Non farmi aspettare, manifestati subito, nemico dei servi di Cristo, affinché questa moltitudine veda che noi li invitiamo al vero Dio. Dopo che l'apostolo disse queste cose, il nemico venne e si pose davanti a lui. Nessuno però lo vedeva ad eccezione dell'apostolo e della donna, e gridò a gran voce, udito da tutti i presenti. 45. Il demonio. Che cosa abbiamo da fare con te, apostolo dell'Altissimo? Che cosa abbiamo da fare con te, servo di Gesù Cristo? Che cosa abbiamo da fare con te, partecipe dei santi misteri di Dio? Perché vuoi tu distruggerci, quando ancora non è giunto il nostro tempo? Perché vuoi tu privarci del potere che ci fu dato, mentre finora abbiamo ancora speranza di servircene? Che cosa abbiamo da fare con te, che sei venuto a scacciarci? Tu hai potere su quelli che ti obbediscono, e noi abbiamo potere su coloro che ci sono soggetti. Perché vuoi tu usare la violenza contro di noi prima del tempo, mentre poi richiedi dagli altri che non usino violenza verso alcuno? Perché brami ciò che non è tuo? Non ti basta il tuo? Perché ti è assimile al Dio, tuo Signore, che nascose la sua maestà, apparve come un corpo e noi, vedendolo, credemmo che fosse un mortale, ma poi egli si voltò e ci eliminò. Tu, infatti, sei nato da lui. Mentre pensavamo di poterlo assoggettare al nostro potere, egli si voltò e ci precipitò nell'abisso. Noi non lo conoscevamo, avendoci egli ingannato con il suo aspetto umile, con la sua indigenza e povertà. Al vederlo, pensammo che fosse uno dei figli degli uomini, ignorammo che egli era il datore di vita a tutta l'umanità. Fino a quando dura il nostro tempo, egli ci diede il potere di non allentare la nostra presa, per questo ci interessiamo dei nostri. Tu però desideri più di quanto egli ti ha dato e ci vuoi tormentare. 46. Dette queste cose, il demone si mise a piangere nuovamente, dicendo: Io ti lascio, mia donna avvenente, trovata molto tempo addietro e nella quale mi sono riposato. Ti lascio, mia sorella e mia amata, nella quale speravo di dimorare. Non so quello che farò né a chi chiederò soccorso affinché m'aiuti. Sì, so che cosa fare. Andrò in un altro paese dove non sentirò parlare di questo uomo, e troverò una persona che ti sostituisca, o mia diletta. Alzò poi la voce e disse: Stai bene, tu che hai trovato rifugio in uno più grande di me. Io mi pongo in cammino alla ricerca di un'altra come te. Se non la troverò, me ne ritornerò da te. So, infatti, che ora che quest'uomo ti è vicino tu ti rifugi in lui. Ora che me ne vado, tu ritorni come eri prima, ma quando giungerà la notte e ti dimenticherai di lui, io avrò il modo di avvicinarti. Il nome di colui che quest'uomo predica mi ha ora spaventato. Quando il demone ebbe proferito queste cose, in quello stesso momento egli lo guardò, ma non lo trovò più. Non rimase che fumo e fuoco, e tutti i presenti esterrefatti. 47. A questa vista, l'apostolo disse loro: Quel maledetto non ha mostrato nulla di strano, ma solo la natura in cui viene consumato, è consumato dal fuoco e da esso si sprigiona il fumo. Invocazione a Gesù. L'apostolo prese a dire: Gesù, mistero nascosto che mi è stato rivelato, a me tu hai rivelato i tuoi misteri più che a tutti i miei compagni. A me hai detto parole delle quali io brucio, ma che non posso esprimere. Gesù, nato uomo, ucciso, morto. Gesù, Dio e figlio di Dio, datore di vita e vivificatore di morti. Gesù povero, che prendevi pesci tanto a pranzo quanto a cena. Gesù che saziasti molte migliaia di persone con un po' di pane. Gesù che ti riposavi dalla fatica del viaggio come un uomo e camminasti sulle onde come un Dio. 48. Gesù, voce sublime sorta dalla perfetta misericordia, Salvatore di tutti, Liberatore e governatore del mondo, datore di forza ai morti. Gesù, mano destra del Padre, che hai scagliato il maligno giù negli estremi confini e hai adunato in una assemblea benedetta la sua proprietà. Gesù, Re universale che sottometti tutto. Gesù che sei nel Padre e il Padre in te, voi che siete uno nella potenza, nella volontà, nella gloria, nell'essenza, che per amore nostro sei stato nominato con molti nomi, tu che sei figlio e ciò nonostante indossasti un corpo. Gesù, che divenisti Nazireo, la tua grazia provvede a tutti come Dio. Figlio del Dio Altissimo, che divenisti uomo vilipeso e umile. Gesù, che non trascuri nulla di quanto ti domandiamo, tu causa di vita per tutto il genere umano. Gesù, che per noi fosti chiamato seduttore, tu che liberi dalla seduzione i tuoi esseri umani. Io mi rivolgo a te in favore di costoro qui presenti, che credono in te, che necessitano del tuo aiuto, che aspettano il tuo dono, che si rifugiano nella tua maestà. Apri le loro orecchie affinché ascoltino le parole dette da noi. Venga la tua grazia, dimori in essi la fede e li rinnovi rispetto alle loro azioni precedenti, sicché si svestano dell'uomo vecchio con le sue opere e si rivestano dell'uomo nuovo che ho predicato loro. 49. Pose la sua mano su di loro, li benedisse, dicendo: resti su di voi la grazia di nostro Signore per sempre. Amen. La donna lo supplicò e disse: Apostolo dell'Altissimo, dammi il sigillo del mio Signore, affinché il nemico non possa più venire da me. Allora andò a un fiume, lì vicino, e la battezzò nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E con lei furono battezzati molti altri. L'Apostolo ordinò poi al suo diacono di preparare l'Eucaristia. Quello prese uno sgabello, vi stese un panno di lino, portò del pane da benedire e lo pose sopra. Venne l'Apostolo, vi si accostò e disse: Gesù, che ci hai reso degni di accostarci al tuo sacro corpo e di partecipare al tuo sangue vivificatore, avendo fiducia in te, osiamo accostarci e invocare il tuo santo nome annunziato dai profeti secondo il volere della tua divinità. Tu sei predicato in tutto il mondo dai tuoi apostoli conformemente alla tua grazia e sei manifestato ai giusti per mezzo della tua misericordia. Noi ti supplichiamo di venire e di comunicarti a noi con il soccorso e con la vita, convertendo a te i tuoi servi, affinché possano piegarsi sotto il tuo soave giogo e sotto il tuo vittorioso potere. L'Eucaristia sia in essi salute dell'anima e vita del corpo nel tuo mondo vivo. 50. Prese poi a dire: Vieni, dono sublime. Vieni, grazia perfetta. Vieni, rivelatore dei misteri tra i profeti eletti. Vieni, annunziatore delle lotte del suo apostolo, nostro valoroso atleta. Vieni, tesoro della maestà. Vieni, prediletto della misericordia dell'Altissimo. Vieni, silenzioso rivelatore dei misteri del sublime. Vieni, espressione delle cose nascoste e manifestatore delle opere del nostro Dio. Vieni, segreto datore della vita ed espositore delle tue azioni. Vieni, datore di gioia, e riposo di quanti si uniscono a te. Vieni, potenza del Padre e sapienza del Figlio, giacché noi tutti siamo una persona. Vieni, e partecipa con noi in questa Eucaristia che celebriamo, in questa offerta che presentiamo e in questa commemorazione che facciamo. fece sul pane il segno della croce e iniziò a distribuirlo, cominciando dalla donna alla quale disse: «Ti sia remissione delle mancanze e dei peccati, e risurrezione perpetua». Poi la distribuì a quanti erano stati battezzati con lei e a tutti gli altri, dicendo: «Questa Eucaristia vi sia vita e riposo, non giudizio e condanna». Essi risposero: «Amen». Atto sesto, 51. Un giovane che aveva commesso un'odiosissima azione, si accostò, prese l'Eucaristia e se la stava mettendo in bocca allorché le sue mani rimasero inaridite e non poterono giungere alla bocca. Appena videro ciò, quelli che erano con lui andarono a comunicare all'Apostolo quanto era accaduto. L'Apostolo lo chiamò e gli disse: «Dimmi, figlio, non avere vergogna di me». «Che cosa hai fatto prima di venire qui?» «Ecco, infatti, che il dono di nostro Signore ti ha smascherato. Esso che guarisce così tante persone che si accostano con amore, con verità e con fede, ti ha palesemente inaridito. Ciò non ti è accaduto senza un motivo. Visto che era stato smascherato dall'Eucaristia di nostro Signore, il giovane andò a prostrarsi ai piedi dell'Apostolo supplicandolo di intercedere per lui e dicendogli: «Ho compiuto un'azione cattiva. Amavo una donna che viveva fuori della città, in un albergo, e lei pure m'amava. Ma avendo udito da te la verità che insegni e la fede nel Dio che tu predichi, ben sapendo che sei veramente l'Apostolo di Dio, io pure ricevetti il segno con gli altri. E siccome tu dicesti: chiunque indulge al sordido connubio, ed in specie all'adulterio, non avrà la vita con il Dio che io predico, pur amandola, la supplicai e cercai di convincerla a vivere con me una vita innocente, pura, tranquilla, casta e modesta, come predichi tu, ma lei non ne volle sapere. Quando mi accorsi che non mi ascoltava, dormii con lei e l'uccisi, già che non avrei potuto sopportare di sapere che avesse relazioni con altri uomini». 52. Udite queste cose, l'Apostolo disse: «O amore corrotto e spudorato, che hai incitato quest'uomo a compiere queste cose! O compagno della corruzione, alla quale quest'uomo non è stato capace di resistere! O connubio lascivo, che corrompe le menti degli uomini e le aliena dalla purezza di Cristo! Opera ingannatrice che infurii contro i tuoi». L'Apostolo ordinò che gli si portasse in un catino dell'acqua da lavare. E quando gli fu presentata perché su di essa recitasse la preghiera, egli glorificò Dio e la benedisse, dicendo: «Acqua dataci dall'acqua viva, luce inviataci dal glorioso sussistente, grazia inviataci dalla grazia. Gesù, nostro datore di vita, venga la tua forza vittoriosa e curativa, discenda la tua grazia e dimori in quest'acqua sulla quale ho invocato il tuo nome». Poi disse: Il dono dello Spirito Santo sia in voi perfetto. E rivolto al giovane disse, lava le tue mani in quest'acqua. Appena se le lavò, le mani ritornarono come erano prima che fossero inaridite. L'apostolo gli domandò, credi tu nel Signore nostro, al quale è possibile ogni cosa? Il giovane rispose, la fede non mi manca. È appunto perché credo in Dio che ho compiuto quell'azione, pensando di fare bene. Io, infatti, l'avevo supplicata, come ti dissi, ma lei non volle ascoltarmi e mantenersi nella purità e nella castità, è per questo che io agii così. 53. Giuda gli disse, vieni, andiamo nell'albergo dove hai compiuto questa azione. Egli precedette l'apostolo, mentre una grande moltitudine lo seguiva. Giunti all'albergo, entrarono e trovarono la donna morta. A tale vista l'apostolo ne fu addolorato, trattandosi di una ragazza. Ordinò che fosse presa e portata al centro dell'albergo. Dopo che la presero e portarono in un letto, Giuda a Tommaso le impose le mani e prese a dire, Gesù, nostro datore di vita, che non ci trascuri ogni volta che a te ci rivolgiamo. Gesù, che vieni a noi sempre che ti cerchiamo. Gesù, il cui orecchio è rivolto a noi che ti cerchiamo. Gesù, che non solo ci hai concesso di chiedere, ma ci hai pure insegnato come pregare. Gesù, che ora non vediamo con questi nostri occhi corporei, ma che mai ti allontani dagli occhi della nostra intelligenza. Gesù, il cui aspetto ci è nascosto, ma è rivelato a noi per mezzo della tua grazia, delle tue opere e delle tue gesta. Tu, che noi conosciamo secondo la nostra capacità e in conformità della nostra misura, eppure ci hai dato il tuo dono superiore alla nostra misura. Tu, che hai detto, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, picchiate e vi sarà aperto, pur timorosi a causa dei nostri peccati e delle nostre trasgressioni, ti domandiamo di versare su di noi la tua grazia per mezzo della tua misericordia. Non cerchiamo né oro né argento, né ricchezze né possedimenti. Né beni né vestiti né nessun'altra di queste cose terrene di questo mondo, che da esso vengono e ad esso ritornano, bensì domandiamo e supplichiamo dalla tua benevolenza di voler fare risorgere, nel tuo nome santo, questa donna che è davanti a te, a tua grande gloria, all'ode della tua divinità e a conferma della fede in te di tutti i presenti. 54. E rivolto al giovane, disse, volgi la mente al Signore nostro. Lo segnò poi con il segno della croce, e proseguì, va, prendila per mano e dille, la mia mano ti ha colpito con il ferro, Gesù con la sua grazia ti risuscita per mezzo della mia fede. Il giovane andò, le si avvicinò e disse, mio Signore Gesù Cristo, io ho creduto veramente in te, che sei il dono del Padre tuo, ho creduto che in te c'è ogni genere di aiuti e di favori, che in te c'è ogni genere di guarigioni, che in te c'è la vita per chiunque si pente, per chi a te si rivolge con tutto il cuore. Supplico la tua misericordia, Signore, affinché venga in aiuto alla mia conversione e per mezzo delle mie mani dia a questa donna la vita, dal momento che oso compiere ciò. Rivoltosi a Giuda, disse: Prega per me, apostolo di Dio, affinché il mio Signore al quale mi rivolgo venga in mio aiuto. Posta la mano su di lei, disse: Vieni, mio Signore Gesù Cristo, e dà costei la vita e a me un pegno della fede. Non appena afferrò la sua mano, lei s'alzò ritta in piedi, guardò la folla circostante, vide l'apostolo di nostro Signore che le stava di fronte e, andatasi a gettare ai suoi piedi, si aggrappò alle sue vesti e gli disse: Ti prego, Signore, dov'è quell'altro che era con me che non permise che io restassi nel luogo che io vidi, ma mi consegnò a te, dicendoti: Portala via con te, affinché divenga perfetta nel suo amore per mezzo della fede e raggiunga poi il mio luogo? 55. L'aldilà. Giuda le rispose: Dimmi donde sei venuta e che cosa hai visto. Lei rispose: Tu che eri con me e al quale egli mi affidò, vuoi sentire da me questo? E prese a raccontare: Un uomo dall'aspetto brutto, dal corpo nero e dalle vesti sordide, mi prese e portò in un luogo pieno di voragini, e con un diffuso odore puzzolente. Mi fece guardare in ognuna delle voragini. Nella prima vidi un fuoco ardente e ruote di fuoco che vi giravano nel mezzo. Mi disse: A questo tormento sono destinate le anime di coloro che trasgrediscono la legge, quelle che mutano l'unione del connubio stabilito da Dio. Altre anime destinate a questo tormento sono quelle che non hanno conservato la loro verginità e si sono date ad atti vergognosi. Verranno in questo tormento perché trasgredirono la legge di Dio. Saranno abbandonate agli spiriti cattivi, saranno disprezzate e derise, ed avranno così la loro retribuzione. Poi andranno in un altro luogo di tormenti peggiore di questo, ove saranno torturate. 56. Mi mostrò un'altra voragine e vi guardai dentro e vidi cose spaventose alle quali sono destinate le anime dei malfattori. Osservai molte torture destinate a uomini e donne, a giovani e a ragazze. Gli uomini che, abbandonata la loro moglie, hanno relazioni con le donne dei loro compagni, giovani che non si attengono alle loro leggi, bensì soddisfano lascivamente la loro libidine con le prostitute, e ai quali non basta il violare la legge con le prostitute, ma tendono insidie alle vergini e indulgono lascivamente al peccato. Le ragazze che non hanno conservato lo stato verginale a motivo della loro lasciva libidine e hanno così attirato la vergogna sui loro genitori. Tutti costoro verranno in questi tormenti e saranno ripagati secondo le loro opere. 57. Mi prese nuovamente e mi fece vedere un antro oscuro, dal quale veniva un odore puzzolente, e mi disse: Guarda e osserva. Questa è, infatti, la prigione per le anime delle quali ti parlai allorché ti dissi che al termine del primo castigo ne sarebbe seguito un altro, alcune saranno qui consumate interamente, mentre altre saranno dirette ad altri tormenti. I custodi di quei tormenti dissero all'uomo che mi guidava: «Dacci costei affinché la leghiamo al suo posto in attesa che vada tra i suoi tormenti». Ma l'uomo che mi guidava rispose: «Non ve la consegnerò perché ho timore di colui che me l'ha affidata, senza darmi l'ordine di lasciarla qui. La riporterò su con me fino a quando riceverò ordini a suo riguardo». Mi prese e mi portò nel luogo ove c'erano gli uomini. Egli, che era come te, mi affidò a te, dicendoti: «Prendi costei, giacché è una pecora smarrita. Tu m'hai ricevuto da lui ed ecco che ora mi trovo davanti a te supplicandoti di essere condotta, per mezzo tuo, alla fede, di poter trovare la grazia per mezzo della tua preghiera, e di poter anche andare a quei tormenti che ho visto». 58. Giuda Tommaso disse allora: «Avete udito, figli miei, quanto ha detto questa donna. E i tormenti non sono soltanto questi, ma ce ne sono altri ancora peggiori. Voi pure, dunque, se non vi convertite alla verità che io predico e se non vi asterrete dalle azioni cattive, da ogni opera che non vi è di giovamento e dai pensieri sprovvisti di conoscenza, finirete in mezzo a questi tormenti. Credete, dunque, in Gesù Cristo ed egli farà svanire le vostre azioni precedenti, vi purificherà da ogni pensiero terreno proprio della terra, vi purificherà da tutti i vostri peccati, che senza il pentimento davanti a Dio vi accompagnerebbero, andrebbero con voi e resterebbero innanzi a voi. Ognuno di voi si svesta perciò del suo vecchio uomo e si rivesta del nuovo, si svesta cioè del suo modo di vivere e delle sue opere corporali. Quelli che rubavano, non rubino più, bensì si diano da fare e lavorino per vivere. Quelli che si davano all'adulterio non commettano più adulterio. Non si abbandonino più a un momentaneo piacere per non incorrere in un perpetuo tormento. L'adulterio, infatti, davanti a Dio è più odioso di ogni altra opera cattiva. Tenetevi lungi dalla menzogna, dall'oppressione, dall'ubriachezza, dalla calunnia e non rendete male per male. Tutte queste cose sono odiate dal Dio che io predico e davanti a Lui sono impure. Camminate, invece, con tutta umiltà, temperanza e purezza. Abbiate fiducia in Dio, diverrete Suoi servi e riceverete da Lui quei doni che sono dati solo a pochi. 59. La moltitudine credette, si arrese obbediente al Dio vivo e a Gesù Cristo e si rallegrava delle opere benedette dell'Altissimo e del suo santo servizio. Ognuno portava molto denaro per il sollievo delle vedove, che l'Apostolo radunava in ogni città, a ognuna delle quali egli provvedeva per mezzo dei suoi diaconi, trasmettendo per il vitto e il vestito ciò che era stato offerto per loro. Egli non cessava mai di predicare e di parlare loro, di additare in Gesù il Messia del quale parlarono le scritture e i cui tipi, misteri e similitudini sono palesi nella legge e nei profeti, il quale fu dato come alleanza al popolo di Israele affinché per amor suo si astenessero dal culto degli idoli, come luce ai popoli delle genti per opera del quale è discesa su di esse la grazia di Dio, sicché tutti coloro che osservano i suoi comandamenti avranno requie nel suo regno e saranno onorati nella gloria. Egli venne, fu crocifisso e, dopo tre giorni, risorse. Esponeva loro e spiegava loro, da Mosè fino agli ultimi profeti, perché tutti predicassero lui e come egli fosse venuto portando veramente tutto a compimento. La sua esposizione era udita dagli uomini nelle città e nei villaggi. E chiunque aveva un infermo, un posseduto da spirito cattivo, un lunatico o un paralitico, lo portava sul letto e lo poneva ai lati della strada dove sapeva che sarebbe passato, ed egli li curava tutti per opera del suo Signore Gesù. I malati affetti da gravi infermità erano guariti. I paralitici si alzavano completamente sani. Tutti glorificavano Dio con una sola voce, dicendo: «Sia gloria a te, Gesù Cristo, che ci hai dato la salute per opera del tuo servo e apostolo Giuda». Completamente sani e pieni di gioia ti preghiamo affinché noi pure possiamo divenire figli del tuo ovile ed essere annoverati tra le tue pecore. Accoglici, Signore nostro, e non imputarci i precedenti nostri peccati, commessi nell'ignoranza. 60. Allorché Giuda Tommaso li vide, alzò la sua voce e disse: «Sia gloria a te, vivente dal vivente! Sia gloria a te, datore di vita a molti! Sia gloria a te, aiuto e sostegno di coloro che vengono al tuo luogo di rifugio! Sia gloria a te, insonne da tutta l'eternità, ridestatore degli uomini, vivente datore di vita. Tu sei Dio, figlio di Dio, salvatore e aiuto, rifugio e riposo di tutti coloro che si affaticano nella tua opera. Datore di riposo a quanti, per amore del tuo nome, hanno sopportato il peso di tutto il giorno, nel meriggio. Ti lodiamo per il dono che ci hai dato, per i soccorsi alla nostra debolezza, per la provvidenza alla nostra povertà. 61. Perfeziona in noi, fino in fondo, la tua grazia e la tua misericordia. Concedici il coraggio che è in te. Guarda, Signore. Amiamo solo te. Abbiamo abbandonato le nostre famiglie e le famiglie dei nostri parenti e, per amor tuo, siamo divenuti stranieri, senza alcuna costrizione. Guarda, Signore. Per amor tuo abbiamo abbandonato i nostri possedimenti, per guadagnare te, possedimento della vita che non può essere tolto. Guarda, Signore, Nostro. Per amor tuo abbiamo abbandonato tutti i nostri parenti, per poter essere incorporati alla tua parentela. Guarda, Signore nostro. Abbiamo abbandonato i nostri padri, le nostre madri e i nostri tutori, per poter vedere il tuo Padre sublime ed essere ripieni del tuo cibo divino. Guarda, Signore nostro. Abbiamo abbandonato le nostre mogli carnali e i frutti terrestri per essere uniti a te con un'unione verace e produrre quei frutti celesti che vengono dall'alto, che nessun uomo ci può togliere, che saranno sempre con noi e noi con essi. Atto settimo. 62. Mentre Giuda andava predicando attraverso l'India si reò da lui il generale di un re e gli disse, «Ti prego, servo di Dio, di considerare che sono venuto personalmente da te, che sei apostolo di Dio mandato per guarire gli uomini che hanno bisogno di aiuto, dato loro dalle tue mani». Ho sentito, a tuo riguardo, che non ricevi mercede da alcuno per te, ma la passi ai poveri. Se tu, infatti, accettassi qualcosa ti avrei mandato una grande somma di denaro e non mi sarei presentato qui personalmente, già che il re non fa nulla senza di me. Io vivo nell'abbondanza e sono ricco. Sono uno dei grandi di tutta l'India. Non ho mai fatto un torto ad alcuno, e tuttavia mi è capitato il contrario di quello che merito. Io ho una moglie dalla quale ebbi una figlia. Lei voglio molto bene, come insegna la natura, e non conosco altra donna che lei. Ora avvenne che nella nostra città ebbe luogo un matrimonio e i contraenti erano miei grandi amici. Vennero, dunque, da me, pregandomi di permettere che invitassero alla festa sia lei che la figlia. Siccome si trattava di amici io non potei trovare alcuna scusa e, pur contro la sua volontà, la mandai accompagnata da molti servi per lei e per la figlia feci una grande ostentazione di ricchezza. 63. Giunto il momento dell'arrivo, le mandai incontro lanterne e torce. Io stesso me ne stavo sulla strada nell'attesa che arrivasse, per poterla vedere e accogliere lei e la figlia. E mentre me ne stavo là, udii un grido di lamentazione e di pianto, alle mie orecchie giungeva, dalla bocca di tutti, «Ahimè per lei, ahimè!» Vennero poi da me i miei servi, con le vesti strappate, per annunziarmi quanto era accaduto, dicendomi, «Abbiamo visto un uomo e con lui un ragazzo che gli assomigliava. L'uomo pose la mano su tua moglie e il ragazzo su tua figlia. Esse cercarono di sfuggire loro e noi li colpimmo con le spade, ma le nostre spade caddero al suolo. Ed in quel momento esse caddero a terra digrignando i denti e sbattendo la testa per terra. Perciò siamo venuti per informarti di ciò che è capitato. Udite tali cose dai miei servi, mi stracciai le vesti, mi percossi la faccia con le mani e presi a correre per la strada come un pazzo. Al mio arrivo le trovai a terra per la strada. Allora le presi, Me le portai a casa e dopo molto tempo ritornarono in se stesse ed io le ristorai e le feci sedere. 64. Iniziai allora a domandare a mia moglie: che cosa ti è capitato? Lei mi rispose: tu non hai capito ciò che mi hai fatto? Ti avevo chiesto di non andare alla festa perché non stavo bene di corpo. Mentre camminavo lungo la strada, giunta alla conduttura dell'acqua, vidi un uomo nero di fronte a me che mi faceva cenni con la testa e vicino a lui c'era un ragazzo che gli assomigliava. Dissi alla figlia: guarda quanto sono orribili questi uomini. La figlia mi rispose: ho visto un ragazzo i cui denti erano come il latte e le cui labbra erano come carboni. Lasciandoli vicino all'acquedotto, ce ne andammo. Giunta la sera, lasciata la casa ove aveva avuto luogo la festa, ce ne venimmo via con i servi e, giunti all'acquedotto, la prima a rivederli fu la figlia, che corse a rifugiarsi da me. Dopo di lei, li vidi anch'io venire verso di noi. I servi che erano con me se ne fuggirono, e quelli percossero e buttarono a terra me e la figlia. Mentre lei mi raccontava questo, quelli le assalirono di nuovo e le buttarono a terra. E da allora esse sono incapaci tanto di uscire per la strada, quanto di recarsi al bagno, di andare a una casa in festa o a una casa in lutto. Madre e figlia rimangono prostrate notte e giorno. E io le ho rinchiuse in una camera dentro un'altra sia perché a causa loro sono diventato oggetto di derisione sia perché quando quelli le assalgono le gettano a terra e le disonorano ovunque si trovino. Ti supplico dunque e ti prego di aiutarmi, di avere pietà di me. Sono ormai 3 anni che in casa mia non è imbandita una tavola e che mia moglie e mia figlia non vi si sono assise. Soprattutto per la mia infelice figlia, che in vita sua non ha mai avuto alcuna soddisfazione. 65. Udite tali cose dal generale, l'apostolo restò molto triste e gli disse: se tu credi che il mio Signore Gesù Cristo le può risanare, tu le vedrai guarite. A queste parole, il generale gli rispose: io credo che tu puoi risanarle. L'apostolo gli disse: io non sono Gesù, ma suo servo e apostolo. Affidati a lui ed egli le guarirà e le aiuterà. Il generale rispose: mostrami come lo posso invocare e come posso credere in lui. Per quanto ti è possibile, rispose l'apostolo, avvolgi in alto la tua mente, già che egli ora non è visibile agli occhi corporei. Ma per mezzo della fede lo si riconosce nelle sue opere ed è glorificato dalle guarigioni che opera. Il generale innalzò allora la sua voce e disse: io credo in te, Gesù Cristo, Dio vivo, figlio del vivente, che sei divenuto uomo, che sei apparso come medico, come datore di vita e come salvatore per tutti gli uomini che veramente si convertono a te. Sì, Signore, ti supplico e prego, aiuta la mia poca fede e il mio timore, poiché mi rifugio in te. L'apostolo ordinò al diacono Santipo di adunare tutti i fratelli che erano là. E quando furono tutti insieme, l'apostolo si pose in mezzo a loro e disse: 66. Figli miei, fratelli e sorelle in nostro Signore Gesù, restate in questa fede e abbiate fiducia nel Signore nostro Gesù Cristo che vi ho annunziato. Ponete in Lui la vostra speranza ed Egli vi custodirà. Non staccatevi da Lui poiché Egli non vi abbandonerà. Se accade che vi addormentiate di quel sonno che fa sì che l'uomo che dorme non sia più lui, egli non dormirà, ma sarà sveglio e vi custodirà. Se sarete in mare su di una nave, dove nessuno è capace di aiutare il compagno, egli camminerà sulle onde del mare e sosterrà la vostra nave. Io, infatti, mi allontano da voi e non so se vi rivedrò ancora corporalmente. Non siate come i figli di Israele che incespicarono allorché partì da loro Mosè che era stato per un tempo il loro pastore. Ecco, in mia vece vi lascio il diacono Santipo, egli vi predicherà Gesù Cristo come me. Anch'io sono un uomo come voi. Non posseggo le ricchezze che alcuni hanno e che conducono il possessore alla rovina perché non sono utili, lasciandolo nella terra donde venne e addossandogli quelle mancanze e quei peccati che per amor loro egli commette. I ricchi caritatevoli sono pochi. Non ho neppure la bellezza umana, quella che porta ben presto alla confusione tutti coloro che pongono in essa la loro fiducia. Già che quando colui che ha la bellezza ne è privato, la sua bellezza non gli serve più e quanti l'amavano per quella bellezza, lo sfuggiranno con disgusto. E infatti, tutte le cose di questo mondo a loro tempo sono amate e a loro tempo odiate. Ponete la vostra speranza in Gesù Cristo, Figlio di Dio, poiché anche noi se non portiamo il fardello che si addice al suo nome, saremo puniti e adesso sarà per noi motivo di giudizio e di condanna. 67. Pregò a lungo con loro, li affidò a nostro Signore e disse: Signore di ogni genere di creature che ti aspettano, Dio di tutti gli spiriti che sperano in te, tu che liberi dall'errore i tuoi esseri umani, e redimi dalla corruzione e dalla schiavitù quanti ti sono obbedienti, e vengono al tuo luogo di rifugio. Resta tu con il gregge di Santipo, ungi il suo gregge con l'olio di vita, purificalo dalla sua infermità, custodiscilo dai lupi e dai ladroni sicché non possano strapparlo dalle sue mani. Impose loro le mani e disse: La pace del Signore sia con voi e vi accompagni.